Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar, 8:18. E allora? Ci siamo. Ma la grande notizia, mi toppi la grande notizia. Dai. Qual è la grande notizia? Beh, dai, fai finta di non vederla. Montella. Certo, i cinesi confermano Montella. Confermano Montella. E tu mi hai... Sono i cinesi che non sono confermati. Come segna posto, intanto resta Montella. Ah, ecco, rimane Montella. Ma dai, vuoi negare al pubblico nella tua squadra in ascolto la grande notizia? Io lo dico per loro e lo dico anche per te. Vedi, c'è un futuro, c'è speranza. C'è speranza. Ti setto al Milan. No, va bene. C'è speranza. Allora, 14 febbraio, anzi 15 febbraio, diciamoci le cose come stanno, perché il 14 febbraio era San Valentino, ma sai com'è, noi rimestiamo tutti con la siamo romantici, invece no, oggi c'è il santo di chi è rimasto solo, si fa per dire, però è rimasta un po' anche questa cosa, che il giorno dopo erano i protettori di chi è solo, mentre quello il giorno prima era di chi è fidanzato. Non è vero, ma Faustino e Giovita oggi santi sono i santi tradizionale di Brescia, qua in Lombardia, perché erano figli di una famiglia pagana e poi sotto l'imperatore Aureliano decapitati dopo delle traversie nella loro leggenda completamente leggendarie, annegati in mare, salvati dagli angeli, trasportati di qua e di là. Comunque Faustino e Giovita sono ancora oggi venerati a Brescia, e addirittura pare che apparvero nel 1438, quando i milanesi stavano assediando i bresciani, salvando la città. Però ci sono anche santi da ricordare e fare gli auguri a chi eventualmente avesse il loro nome, perché hanno dei nomi un po' strani. Per esempio c'è San Decoroso di Capua, Sant'Isicuro, San Zosimo, Sant'Onesimo, San Quinidio. Ecco, qui siamo proprio alla grande Quinidio. Capisci che nel 1808 oggi apriva la borsa di Milano, pensa un po', e l'aveva voluto Napoleone sotto Eugenio di Beauharnais. Nel 1986 Eros Ramazzotti, la bellezza di 31 anni fa, vinceva Sanremo con Adesso Tu, e tutti questi anni dopo ha mandato la moglie, e gli italiani sono rimasti abbastanza a bocca aperta. Nel 2005 nasceva YouTube, nel 1898 nasceva Totò, e nel 1963 Monica Cirinnà, l'animalista a cui dobbiamo la legge sulle unioni civili. Allora, auguri ovviamente a Monica Cirinnà. Alle 8:21 minuti, intanto dando il numero di telefono 800 24 00 24. Senti Oscar, ma qui siamo a Gamilla, ragazzi. Hai capito? Ottima. Così si festeggiava negli anni del fascismo. Questo è il fascismo, che chi sentiva questa musica incorreva nelle sanzioni del regime. Esatto. Però non ti è sfuggita la grande trovata, trovata della preside di Roma, ma è per quello che mettiamo questo ballo che ci riporta un po'. Ma no, scusate, voi dovevate mettere giovinezza. Vabbè. Perché scusate, questo era il nemico. Ma detto questo, no, giovinezza, Peter, non ce lo mettere, se non incorriamo. O faccetta nera. No, ma la cosa incredibile è che tutti abbiamo pensato leggendo stamattina che fosse uno scherzo. Sì. E invece era vero. È vero. A Roma. La preside Anna Altieri, con tanto di volantone, con il timbro del MIUR, eccetera, eccetera, che organizza per i ragazzi e le famiglie un gran ballo fascista. Il gran ballo fascista. Io pensavo fosse uno scherzo a un certo punto, perché è stato organizzato in questa scuola di Roma per il primo aprile. Allora ho detto la data. Ma è intervenuto il ministero. È intervenuto il ministero. Cioè, circolari. Cioè, il gran ballo fascista hanno organizzato in questa per rievocare con bibite patatine. Bibite non americane, la zedrata di regime, perché siamo tutti autarchici. Pazzesco. Ti viene bene però. No, ma no, mi viene bene perché via Arbore, Arbore è un buon compagno di quando ero piccolo, no? Il compagno, come cioè, si chiama, Cammerata a Catenacci. Ma io dico, ma signora preside, ma com'è possibile organizzare un gran ballo fascista nella scuola? Quando c'era lui, caro lei. In cui bisogna venire anche vestiti agghindati per no, insomma, recuperare in l'atmosfera ormace, di quel tempo. Ma... In ormace, Balilla, giovani italiane, questo è. Vabbè, noi scherziamo, ma questo dà l'idea di come a volte la fantasia superi la realtà nel nostro paese. E io sono convinto che se noi avessimo qui la Anna Maria Teri, la dirigente scolastica, lei ci direbbe: state equivocando, no, è una cosa di storica, cioè, ma figura me, perché no? Ma certo, storica sicuramente, cioè, è un gran spolverare di ma camicie sicuramente, nere. Ma pensa che in centro una scuola, un suo collega voleva organizzare, portare i ragazzi un pomeriggio e il programma sarà Belve contro Cristiani, perché giustamente no, è una cosa storica, per quale motivo non farlo? Una rievocazione. Vabbè, comunque dai, non parliamo ovviamente di questo, no. Vorremmo parlare sicuramente un po' del Partito Democratico. Sicuramente, lo so, no. Caro Oscar, è giusto. Lo so, una grande intervista di Veltroni, lo so, potevo intrattenere su quello. C'è una no, io ho solo una detto, pagina. C'è una pagina di intervista a Walter Veltroni. Fitta. Non l'ho letta però, ho detto, segnalo che c'è una pagina di intervista. No, per esempio, di Partito Democratico vorremmo parlare, perché alcuni sindaci sindaci, tra l'altro molto legati al Partito Democratico in Emilia Romagna, hanno fatto invece questa petizione per dire basta far rimanere impuniti i furti nelle case. Quindi cose concrete, secondo me interpretando quello che pensano i loro amministrati. Sbaglierò, sì. Ma penso che in questo caso sia una cosa sentita dal basso. Credo proprio di no. Però insomma, prima bisogna parlare del Partito Democratico. Io ironizzando, ma con rispetto, dico la puntata, ogni giorno dico la puntata numero 7482 della telenovela Scissione, perché pare proprio che ci siamo. Poi ci dicono che siamo ci siamo. Ma no, ma nel senso ma che... Come? Tutti i giornali spiegano Orlando in campo. Ho visto l'interprete ufficiale su Quella della Sera del Pensiero Renziano che ci dice no, Renzi è diverso, non vuole la scissione, lui si sta adoperando perché Orlando, il ministro della giustizia, si candidi in maniera tale evitando che sopra. No, forse la notizia più succosa della giornata, stando dietro a tutti i retroscena, è questa: pare che Renzi si dimetterà domenica, ma farà il reggente del Partito Democratico, quindi si dimette. Adesso se io dico che è la figura dell'autoreggente. Ecco, lo sapevo. Tira di bocca e le autoreggenti sono queste. Ma è più sexy, no. Ma che vuol dire? E lui, l'auto, è reggente. E in realtà punterà poi per accelerare questa questione dei vitalizi, no? Questa forse è la cosa più interessante. Vuole far portare avanti questa legge, primo firmatario Matteo Richetti, per rimodulare tutti i vitalizi, anche quelli retroattivamente, con il sistema, diciamo, applicare il metodo Fornero a tutti, quindi ricalcolarli al ribasso, ovviamente, i vitalizi. Queste sono le due notizie più importanti della telenovela. Questo è. Però vogliamo chiedere tutto a chi, tra l'altro, ha scritto sull'Huffington Post un articolo ieri molto interessante, Lucia Annunziata, che conduce in mezz'ora su Rai 3 ogni domenica. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, Lucia Annunziata, buongiorno. Grazie di essere qui. Ha scritto un pezzo un po' duro sull'Huffington Post, sul Partito però Democratico. È andata un punto invece delle punto. Polemiche personali. Certo. Detto qui c'è chi interpreta il partito in un modo e chi in un altro. Ed è, secondo me, acchiappa uno dei punti dell'evoluzione storica di cui è difficile trarre le fila, ma insomma, che si vede che c'è questo punto, almeno questa è la mia opinione minoritaria. Però sentiamo, facciamocelo spiegare da lei. Grazie Giannino. Difficile in questo periodo uscire dalle questioni personali, quindi sono contenta se dici che ci sono una piccola parte riuscita. Ma la questione di fondo, secondo me, è che non ci sono dubbi che questo partito è entrato in crisi, ma ben prima di questa fase sulla questione di Renzi e ben prima anche nel periodo berlusconiano. Io ricordo che, e credo lo ricordate anche voi, che nel 96-2001, che fu una fase considerata, diciamo, trionfale, la fase del grande unionismo, ci furono 3 leader, 4 governi e quando si andò alle elezioni si fece un ennesimo candidato. Esatto. Abbiamo Prodi, 2 governi Renzi, D'Alema due governi D'Alema con di mezzo il grande tradimento, e quello fu, diciamo, un altro trauma. Si arrivò a Amato, e poi si arrivò a Rutelli contro che fu sconfitto. Cioè, voglio dire, qui c'è qualcosa che non ha mai funzionato, secondo me, in quel tipo di fusione. Io ne parlavo stamattina con un renziano doc che contattava questa cosa. Però, secondo me, questa è la discussione. Il punto vero di tutta la loro divisione è proprio il concetto di partito e il concetto di governo. Come dico io, il partito comunista è un partito prometeico, Prometeo, e l'altro è un partito pongo. Cioè un partito che si fa con la pratica politica, il partito della Democrazia Cristiana. Quindi sono veramente due pratiche che non sono mai state insieme. E quindi si divideranno? Berlusconi ha tenuto insieme tutto questo, no? Ma quando poi chiuso il ventennio, questa roba qui è arrivata al dunque. La domanda che tutti si fanno è appunto la questione, è scissione, non scissione? Io sono piuttosto scettica, perché a me riesce ancora difficile vedere che il nucleo forte che ha dato vita al PD se ne va. Perché c'è proprio un problema, non a caso, no? Se è una scissione sarà un'altra scissione slow motion che lascerà moltissime pendenze in famiglia, perché voi vi rendete conto che domenica è stata una pagliacciata, no? Cioè, diciamocela francamente. Renzi, la solita renzata, faccio questa, la scissione, andremo, faremo, mi dimetto. Siamo arrivati lì, ragazzi, ma veramente uno ha perso una giornata di tempo appresso a loro, no? Cioè, voglio dire, arriva lì, non si parla né di scissione né di dimissioni, si vota secondo le peggiori pratiche delle parrocchie piuttosto che delle sezioni comuniste, un documento che approva la convocazione di un'assemblea nazionale domenica, doveva essere sabato, poi hanno avuto paura del numero legale, quindi va domenica, e domenica si approverà un documento che dice che ci sarà un'altra coda di un altro organismo in cui ci saranno forse le dimissioni e forse annuali. Ma a voi vi sembra una dimissione? No. Vi sembra una scissione? A me sembra una, presente quando arrivano le notizie dell'Enel che dice vi stacco la luce entro 15 giorni? Sì. È una di quelle cose che dice, beh, vabbè, andate dall'avvocato o al Codagons oppure tentate di farvi prestare dei soldi. No? Tra Lucia Annunziata, c'è la questione del governo che giustamente hai citato, ma un governo c'è? È un governo in carica, il governo Gentiloni, però non si capisce neanche questa cosa, cioè gli italiani insomma capiscono poco, ma lo sostenete questo governo, cioè Partito Democratico, lo sostenete, non lo sostenete? Ma sostenuto, soprattutto devo dire, è il quarto governo, ed è il quarto governo malmenato, e tra questo metto anche il governo Renzi, perché voglio dire, se facciamo un discorso, Renzi, cioè sono quattro premier del PD che il PD ha espresso e il cui governo è stato malmenato, perché Letta, ma Renzi, lo stesso Renzi, in fondo c'è stata un'enorme opposizione a Renzi, cioè il governo Renzi non è sempre stato minato alla base. Adesso c'è il governo Gentiloni, si fa lavorare o non si fa lavorare? Le stesse persone che erano contro Renzi adesso difendono il governo Gentiloni. Cioè c'è una schizofrenia su questa questione del governo, che questa sì è imperdonabile da parte degli elettori, no? E ci metto dentro anche gli attacchi a Renzi, perché il governo Renzi si doveva andare al voto, col governo Gentiloni bisogna chiudere la legislatura. Troppi giochi al di fuori dell'interesse degli elettori, lo dico essendo tra questi elettori, come è noto. Ma è chiaro, infatti. Io non ho mai nascosto le mie appartenenze politiche, cioè nel senso che uno vota, i giornalisti votano, non è che stanno come gli angeli, non hanno sesso, insomma, no? Quindi secondo me questa è un'operazione completamente avulsa dalla realtà, completamente. E non so neanche per questa ragione se ci sarà la scissione. E vi devo dire una cosa, io non tifo per la scissione, ma in un modo o nell'altro devono andare a un chiarimento. Non tifo per la scissione, perché secondo me è un'operazione, tutte le scissioni in Italia hanno provato a essere delle operazioni negative, eccetto forse quella del 21, no? Da Turati esatto. Quindi, sai, io l'unica preoccupazione che ho, seguendoti in tutto il discorso, infatti ho taciuto perché condivido, è così, ma detto questo, l'unica preoccupazione che ho è che se alla fine, come io credo, perché io non credo che assisteremo a chissà quale davvero riforma rispetto alle leggi elettorali disegnate dalla Corte Costituzionale, in un sistema con la proporzionale pura, da una parte chi volesse uscire, anche se anch'io non mi vedo l'uscita in pompa magna, bandiere spiegate al vento, però poi possiamo sbagliare, ma certo la proporzionale pura incita più che altro, non credo neanche che ci saranno le coalizioni, non ci sarà bisogno di coalizione, quindi ciascuno andrà sulla sua identità. Questo è il primo effetto. Ma quello diciamo, che sono disposto a credere è che ci possano essere pure liste separate per poi mettere in atto ponti, eccetera, eccetera, cioè... Anch'io quello che non vedo è, insomma, un leader che argomenti davvero dalla tribuna per questa ragione, cioè, come dici tu, la continuità con una tradizione interpretativa del partito come sintesi più elevata di una società che deve esistere a prescindere dall'andare al governo rispetto a chi dice macchina elettorale, il partito è una macchina elettorale, cioè Renzi. Io non mi vedo qualcuno capace di spiegare quella bandiera storica, ecco, non me lo vedo, perché altrimenti l'avremmo visto in questi anni. Oscar, no? Il problema di fondo è che, scusa, ho detto una frase politicista, il problema di fondo, mi perdonatemi, sì, anche noi ci anni di assemblee, no, no, il problema di fondo, va bene, ritraggo, tutta la svolta di cui Renzi è stato protagonista, indiscusso, perché ricordiamo che questo stesso partito chiama Renzi, cioè è tutto il filo, diciamo, del PD, è un filo di disorientamento, insomma, no? Il punto chiave è che Renzi è arrivato in un momento in cui il partito era debolissimo e le ragioni della sua debolezza erano, come del resto spesso è successo in passato con la sinistra, la mancata accettazione, non è neanche un'analisi, della modernità. Sì. Renzi ha proposto una serie di cose, ma le ha proposte male. Il nodo, sembra a me, quello, cioè che più che la più che la società si guardi alla politica. Questo è il segno dell'involuzione. Questo è il segno dell'involuzione. Allora, vogliamo fare un discorso su Berlinguer, vero. Berlinguer, quando disse tra l'ombrello NATO e la Russia, io preferisco l'ombrello NATO, a parte che quello era un leader che prese le sue decisioni e sapeva che se poi andava in territorio sovietico avrebbero cercato di ammazzarlo come successe, insomma, perché poi ci sono anche le qualità di leadership sulle proprie scelte, no? Uno fa una scelta e le paga, sì. Non come oggi, uno le scelte viene sempre premiato. Avrebbero inscenato gli incidenti stradali, no? Come tentarono. Ecco, va bene. Allora, la questione di fondo è che c'è una modernità, la modernità è sempre stato il punto debole della sinistra, come tu sai, e soprattutto in economia. Renzi aveva colto questo nodo, è arrivato e ha fatto delle proposte esigue. Alla fine il problema di Renzi, gli 80 euro non sono la modernità. Sì. È chiaro? Non c'è dubbio. Così come schiantare le reni al sindacato non sono la modernità, perché è una questione, perché il passaggio, secondo me, il passaggio dell'Italia da una fase, diciamo, capitalistica tradizionale alle nuove forme di lavoro va sostenuto con un impegno pubblico molto forte. È inutile che tu schianti le reni ai sindacati, perché schianti le reni di fatti a migliaia di operai che devono andare da qualche altra parte o i cui figli devono andare da qualche altra parte. No, e il paradosso, quindi, è che poi il pezzo vero della modernità che avrebbe dovuto essere il Jobs Act, cioè una moderna concezione delle politiche attive del lavoro per intervenire su chi il lavoro l'ha perso e trovare in un altro con la ricollocazione, è quella che non si è vista e non si vedrà. Io sono molto d'accordo con te, proprio l'ancoro a questa osservazione concreta, sì. Mi pare di capire. Sì, in ogni caso, noi nel ringraziare Lucia Annunziata, ovviamente, domenica al prossimo appuntamento, non con l'assemblea del PD, ma con anche in mezz'ora su Rai 3. Bravo, vero appuntamento della domenica è quello. La ringraziamo ovviamente Lucia Annunziata e staremo a vedere, ecco, questa telenovela, scissione, non scissione. Però continua. Mi piace che ci siano voci culturalmente dentro capaci di questa vena critica, no? C'è anche Luigi che ci chiama da Alessandria, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno Giannino, grazie intanto. Io volevo dire due cose velocissime. Queste persone del PD che hanno in mano il governo hanno la fortuna di essere lì, magari qualcuno con la polemica non eletti, ma invece di stare lì a litigare, ma si rendono conto che hanno l'Italia con dei seri problemi da qualsiasi angolo la si guarda? In qualsiasi direzione ci sono problemi, questi sono stati lì, messi lì per San Napolitano, eppure non riescono a capire, forse è ora che la smettano di litigare, cercare di guardare 100 metri più in basso a loro, dove c'è della gente che arranca tutti i giorni per portare a casa la pagnotta. Cioè vede la classica politica che discute di politica e poco dei problemi. Ma assolutamente, ma lei vuole mettere gli italiani quanto gli importa se D'Alema non va d'accordo con Renzi, se Bersani non... Cioè, ma chi da uno a mille! In teoria, adesso non è che voglio difendere questa cosa, in teoria però, come dire, un partito unito e di governo dovrebbe essere unito per poi chiaramente fare delle cose, ecco, questo per poi portare avanti delle politiche per il paese. Però insomma questo è un mondo forse utopistico, è quello che disegno io. In questo cioè vedo che il senso di dibattere all'interno di un partito per poi fare delle politiche. Però Luigi giustamente fa notare che insomma poco interessa delle questioni interne. Sotto la superficie, io se dirigessi come in passato capitò un giornale, mi divertirei a fare tutt'altro criterio di lettura. Difatti poi diciamo, a me per esempio quello che colpisce è che Padoan, che è stato zitto la direzione, ma poi ieri non è riuscito a star zitto, dice beh mi colpisce l'aria statalista di ritorno che ho sentito alla direzione, bim, e ce l'ha con i suoi colleghi del governo Gentiloni, che prima non dicevano sotto Renzi le cose che hanno detto in direzione dal palco, pur essendo i progetti contro cui si sono, parlavamo di ferrovie, pronunciati quelli di Renzi. Oppure, per esempio, torna la tassa sullo sbarco nelle isole minori. Qualcuno ha detto niente. Sì, torna, ma quella c'è già, no? No. Era stata congelata per tutto il 2016. Torna nel 2000 proroghe, uno dirà fesserie. E ma è di queste fesserie che vive poi la gente nella loro vita concreta, per essere chiari. Sì. Abbiamo portato a casa una battaglia, perché se ne sono resi conto quelli del PD, avevano fatto gli obblighi trimestrali IVA, mi avete sentito dare mille volte, adesso le mille proroghe cambiano idea. Ecco, lo sto dicendo per dare una risposta al nostro ascoltatore, e come se prestano orecchio a quello che viene dal basso, solo che prestano orecchio solo quando hanno paura di prenderle, perché tutte queste retromarce derivano da queste cose qua, erano tutte decisioni che avevano preso loro. Tra l'altro a proposito di cose concrete, ripartiamo da qui. Dopo la pubblicità parliamo di questi sindaci, molti del PD, piccoli paesi, che hanno fatto una petizione per dire basta, ci sono troppi furti negli appartamenti, non c'è certezza della pena, dobbiamo... i furti non possono stare impuniti, se no è come far dire, cosa che è vera, e vengono da tutta Europa a farli, perché lo sai che scelgono l'Italia, perché tanto è ovvio che poi in carcere non ci si sta. Tra poco avremo uno di questi sindaci con noi, state. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, eccoci qua, sono le 8:43 minuti. Caro Oscar, con noi c'è un sindaco di un paese piccolino, perché è Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Tra l'altro non ironizzare, tu Rubiera. Anche perché conosco il paese. Parla ovviamente di furti. Furti negli appartamenti. Furti che restano sempre impuniti. Perché, e questo è un dato di fatto, ce lo confermano tutti, anche molti rapinatori dall'estero, vengono qui in Italia perché scelgono un sistema dove poi sistema giudiziario li protegge. Le chance di impunità A sono più elevate, B le procedure sono lunghissime, C gli anni reali scontati inferiori. E allora cosa succede? Che alcuni piccoli comuni di piccoli sindaci si sono uniti e hanno raccolto adesioni per dire cari politici, basta, non girate gli occhi, non girate la faccia, non chiudete gli occhi di fronte al fatto che questi furti negli appartamenti restano impuniti. È pubblicato sul blog del PD di Reggio Emilia. Esatto. Emanuele Cavallaro è sindaco di Rubiera del Partito Democratico, siamo in provincia di Reggio Emilia. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Allora, intanto è un problema così reale nel suo comune, nei comuni vicini, nei comuni limitrofi? Beh, è un problema che negli ultimi 10 anni dà dei dati assolutamente allarmanti. Se uno guarda gli ultimi 10 anni sono più 140% le cose, i furti che sono successi in Emilia Romagna. Dopodiché, come si dice, quest'anno registriamo nei dati ufficiali un lieve rallentamento, ma non devo spiegare a voi come funzionano le curve prima di recuperare un gap di questo tipo. Ce n'è parecchio e la gente naturalmente è parecchio allarmata. E quindi abbiamo preso un'iniziativa da istituzioni piccoline verso le istituzioni più grandi per dare un po' di voce a quello che è un disagio che sentiamo dai nostri cittadini. Posso fare una domanda che se parla all'amministratore ma parla anche al politico? Non è che per anni non si è guardato ai numeri, soprattutto in alcune parti d'Italia, e si è un po' disinvoltamente preferito non dare loro importanza per evitare retropensiero, per evitare di dare spazio al populismo, a chi chiedeva eccetera, e ci prendeva i voti sopra. A furia di far così, ecco che poi la realtà si vendica, certo. Perché poi la gente dice sì, ma nel frattempo qua le cose stanno aumentando. E secondo lei ha un fondamento questo criterio oppure no? Secondo me c'è una situazione normativa in questo momento tale per cui, insieme ad un combinato disposto un po' infernale di cose che si sono affastellate in questi ultimi anni, ci troviamo davanti a una situazione che è quella che ha descritto anche il procuratore capo della Corte d'Appello di Bologna, in cui venire a delinquere qui è più lucrativo che continuare a farlo all'estero. Conviene. Ma spieghiamo questa cosa, che a me hanno spiegato, io non ci credevo, l'ha spiegato un amico avvocato. Che quando viene arrestato, per esempio, una persona che c'è un mandato di arresto internazionale in Europa, ha diritto questa persona, se viene arrestata anche, che ne so, in Francia, ha diritto di scegliere il sistema giudiziario con cui essere giudicato, perché siamo nell'Unione Europea. Indovini un po', sindaco, in genere, tutti quelli che vengono fermati, che sistema giudiziario decidono di, secondo quale sistema giudiziario decidono di essere giudicati? Immagino che consiglio dell'avvocato, ovviamente. Quello italiano. Come quelle società che scelgono di fissare la sede legale nel paese dove ci sono più convenienze fiscali. Anche i ladri si sono specializzati e oggettivamente non dubito che quello che le ha raccontato il suo amico sia quello che succede. È assolutamente coerente con le dichiarazioni del procuratore che citavo prima. Esatto, conviene. E onestamente, così come l'immigrazione è un fenomeno anche economico di tutto rispetto, i rapaci migratori invece sono un fenomeno che non è assolutamente tollerabile. Questo sì. Quante adesioni avete raccolto? Cioè, i cittadini immagino vi abbiano detto bravi. Cioè, quanti sindaci siete? Quante adesioni avete raccolto? Siamo 6 sindaci, per la verità se ne sono aggiunti anche altri comuni della nostra provincia che hanno semplicemente sottoscritto la petizione che avevamo proposto. Siamo arrivati a 15.300 firme, se non ricordo male. Ma cosa chiedete esattamente con queste firme? Chiediamo l'inasprimento delle pene, in particolare per i furti in abitazione, perché anche questo è un aspetto tecnico interessante da approfondire, nel senso che al momento risulta davvero complicato applicare misure cautelari anche a chi viene colto sul fatto. Questo, per carità, è una cosa dal punto di vista del garantismo interessante, ma quando c'è pericolo di fuga e poi non riesci più a ritrovare nessuno da portare a processo... Cioè, ragazzi, neanche la flagranza di reato ti porta al carcere. No, purtroppo siamo pieni di storie, diciamo così, che se uno fa un po', recupera un po' di storie di cronaca e prova a seguire i fatti anche dopo gli arresti, sostanzialmente fino a... Se fossimo in un videogioco diremmo che il ladro ha 3 vite prima di rischiare oggettivamente il carcere. Qualcosa. Sindaco, e poi in generale la certezza della pena, perché quello che dicevi prima, cioè la scelta del nostro sistema, diciamo così, carcerario, è perché da noi oggettivamente si esce prima che altrove. Anche questo è un dibattito ampio. Noi non siamo dei forcaioli, ma i ladri non sono nemmeno, come si dice, dei portatori di dibattito, sono un altro tipo di problema. Noi siamo partiti anche a parlare del quello che sta succedendo nel Partito Democratico. Lei, sindaco, è del PD, che effetto le fa? Cioè, le dà un senso di distanza, come si dice, tra la politica chiacchierata e i bisogni concreti della gente quando sente parlare? Guardi, io la vedo così, lasciando perdere tutte le diatribe su cui vi ho seguito anche prima, c'è chi è molto più dotto di me ad affrontare le situazioni interne del mio partito. Mi ha colpito però la telefonata di prima dell'ascoltatore di Alessandro, se non ricordo male. In effetti, se noi ci muoviamo è perché pensiamo che ci sia un governo legittimo che sta governando il paese e che è in grado di operare su quella che è un'urgenza. Governo con cui, tra l'altro, in qualche modo avevo già avuto modo di interloquire col ministro Orlando a luglio, e sulle impostazioni e le richieste che stiamo portando avanti a questo punto ci aveva dato sostanzialmente ragione. Il problema è che i provvedimenti si sono arenati, immagino, in mezzo al cambio di agenda politica, diciamo così, sono lì rintanati da qualche parte in Parlamento. Credo che se si riuscisse invece a tirarli fuori godrebbero sicuramente di un appoggio trasversale da parte di tutte le forze politiche che vogliono fare qualcosa. Ma sì, perché chiaro, non ci sia, credo, nessuno spirito di gogna, nessuno spirito di vendetta, nessuno spirito di cattiveria nelle parole del sindaco di Rubiera. No, voglio dire, insomma, quindi non è che sta parlando di manganellare chissà chi. Insomma, sta chiedendo delle minime regole di convivenza. Chi fa un furto in appartamento vada in carcere. È appunto la cosa insospettabile, è che ci sono fior di magistrati che poi fanno notare, no, che in Italia esiste un enorme problema da questo punto di vista. Quindi, secondo me, conta il fatto di non aver voluto ammettere che noi abbiamo fenomeni criminali di questo per anni, tipo. Dice. Perché sì, perché ovviamente sembrava quasi una concessione poi ai sindaci giustizieri leghisti e così via. Sbaglierò, ma io credo che a furia di misurare i problemi reali, non per quello che sono, per la gravità reale che hanno, per i numeri che hanno, ma per la domanda a chi giova, se io poi è come se dessi ragione a un avversario, si commettono gli errori. Questa è la mia opinione. Sì, mi colpisce anche questo garantismo, per cui non so se il sindaco è ancora con noi, ha capito perché se uno viene colto in flagranza di reato per un visto che insomma il rischio di reiterazione o di fuga in quel caso c'è, non va in carcere nonostante tutto? Ma perché io credo che veniamo anche da un periodo dove ricordiamoci che siamo stati bacchettati a livello internazionale sul tema delle misure cautelari che spesso poi finivano in nulla di fatto. Ma in questo caso, davanti alla flagranza di reato, ma io dico soprattutto davanti al pericolo di fuga, il termine pericolo in certi casi rispetto a gente che dice che è senza fissa dimora e ha un passaporto estero, ecco, sembra che ci sia pericolo di fuga. Spiegatemi voi come si fa a notificargli poi la convocazione in tribunale. Non gliela si notifica. Il problema, io aggiungo, ma questo varrebbe la pena un dibattito culturale, perché altrimenti posso fare una battutina così, è che caro sindaco, caro Alessandro, nei confronti dei reati dei delitti contro il patrimonio e la proprietà, il nostro ordinamento ha avuto una mano più leggera piuttosto che quelli contro la persona, e qui c'entra la cultura e c'entra l'ideologia, capito? C'entra, e questa è una delle caratteristiche del nostro ordinamento. A furia di metterla così, ecco poi la condizione in cui ci troviamo. Eppure, guardi Giannino, mi permetta, io ritengo che quando un ladro ti entra in casa, anche se non ti colpisce fisicamente, fa un danno enorme ma anche a quella persona. Certo. Perché quella persona non dormirà per mesi. Non è un caso. Però ripeto, io mi ascrivo a una tradizione culturale per cui il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà sono diritti naturali che preesistono all'ordinamento. Il nostro ordinamento non la pensa così. Dice che sono diritti che esistono solo se e in che misura lo Stato me li garantisce. Invece io dico che vengono prima. In ogni caso, Emanuele Cavallaro, sindaco PD di Rubiera, Reggio Emilia, ci tenga aggiornato, noi la chiameremo ogni tanto per capire a che punto sono le firme e come va. Buona giornata, ovviamente concludiamo con Dario da Padova, ci chiama da Padova. Buongiorno. Eccoci. Carissimi, eccoci. Vi stimo tutti e due, Giannino e lei. Sì. Senta, noi abbiamo intenzione di fare una specie di mattana, nel senso che noi siamo... chi? Io, che mi chiamo Dario e ho 55 anni, sì. E altri tre maschi di 55 anni come me, che abitano nel giro di 500 metri. Una banda di amici. Che cosa volete fare? Una banda degli amici siamo. Ecco, cosa volete Vogliamo fare? Raggiungere Bucarest. Uno dei tre avrà una piccola cinepresa. Uno dei quattro, scusi, sì. E uno dei tre rimanenti entrerà in un negozietto tra il centro storico di Bucarest e la periferia di Bucarest. Guardate che vi stangano lì, le leggi sono durissime. Ma noi vogliamo far nascere un caso. Ma cosa volete fare? Capito. Una rapina? Come facevano i radicali fino a 10 anni fa. Beh, Dario, se lo fate, adesso ripeto, per capire assistenza legale, è un modo per far capire. Rischiate parecchio, io ve lo dico. Poi. E fanno una rapina. Ma io non lo farei, Dario, ripensateci, dai, ripensateci. Non lo farei. Vi dobbiamo salutare. A domani.